casa e nemmeno ricorda cosa ha visto ed è pure contento. Portami le parole che il tempo ha appannato, quelle che io ho trovato negli angoli del cuore. Guardami, la mia cenere si scioglie sfinita, nuda scopre di carezze la pelle incantata. Io non esco da qui senza di te. Parlami, la tua voce mi spegne il pensiero, sveglia in me certe cose che sento soltanto di notte al tuo fianco. Quando il tempo dannato va via ed avaro ci lascia soltanto quei ritagli di vita isolati, che viviamo una notte soltanto. Tremano le tue labbra socchiuse e smarrite, cercano un rifugio di baci ammantato. Stringimi, sento che il tuo sospiro mi sfiora, sento il mio che improvviso si ferma.